Tua, lo sangue fuori. Yeah. Pensiero e che ne affoga il rumor nero. aspetti, signorina, le dirò con due parole. Chi sa, chi sa, chi sono? Oh, Yeah.